La cicogna nera. Alle 21.10 un ben trovati a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa, con cui mi scuso subito perché per la seconda settimana di fila iniziamo in ritardo. Purtroppo ci sono degli eventi precedenti che mi stanno un po' sfasando le tempistiche, ma risolveremo, almeno per i nostri ascoltatori, questo problema di sfasamento d'orario. Cercheremo di tornare puntuali ogni giovedì alle 21. Ogni giovedì vi facciamo ascoltare un po' di nuove musiche, un po' di nuove culture musicali del nostro mondo, magari anche non nuove, semplicemente che non sono mai arrivate o mal arrivate a noi occidentali. Allora, 06 49 17 50 è il numero della diretta qui degli studi di San Lorenzo, e apriamo subito con la musica, che un altro errore che ho fatto è che ci siamo lasciati in India la scorsa settimana. Vi ho lanciato un brano che in realtà poi non è partito al suo posto. E avete sentito un brano di un grande chitarrista slide, una chitarra slide che lui ha fatto per sé, un pandit, un maestro, Debashish Bhattacharya è il suo nome. Non volevamo ascoltare quello, in realtà vi ho lanciato il pezzo con cui apriamo questa puntata della Cicogna Nera, quella dei Vadali Brothers, ossia un gruppo di fratelli che arriva da 5 generazioni di cantanti di cavali, la musica mistica, la musica sacra sufi da queste parti del mondo, del Punjab, del Pakistan, anche dell'Afghanistan. Ah! नाम तरा chiamano i fratelli Vadali, cosa devo conoscere di chi sono, questo è il titolo della canzone. Bulla imprecano una risposta al compositore di questa canzone che è Bulla Shah, uno dei più grandi esponenti punjabi Pir, che si legge sul contenuto del libretto dell'album da cui abbiamo estratto questa canzone, le Rough Guide della World Music Network. Pir è uno dei più importanti e influenzati punjabi di Pir, che vi ammetto non so, non ho la minima idea di cosa significhi. Invece il periodo in cui visse questo compositore, dalla poetica allegorica, è circa il 1780-1758. Una posizione allegorica perché, ad esempio, leggiamo che ha trasposto la folcloristica storia di Romeo e Giulietta, posizionandola con dei suoi personaggi come Her e Ranja, piuttosto che Laila e Majnun. Questa che abbiamo ascoltato era una cosiddetta kafi o kafe, è praticamente una poesia in cui le prime due linee, solitamente anche solo la prima, viene ripetuta, diventa il ritornello, e così permette al cantante, al cavallista, se mi concedete il termine, di modularla, di costruirci sopra del mood e dell'intensità. oggi maro hello, oggi maro hello, sono girava scorse puntate, tal Amir Khusrau dell'ordine Sufi dei Cistia è colui che è ritenuto che abbia fuso insieme la tradizione della musica persiana con la tradizione della musica del subcontinente indiano, dell'Asia del sud-est, creando in tal modo il Qavvali che ci siamo ascoltati prima, così come la musica classica indostana, che è il brano invece che ci stiamo ascoltando ora. Thank you. Bishwah Mohan Bhat è il musicista che ci siamo ascoltati insieme ai musicisti del Rajasthan, e questa volta lui è uno dei più grandi e conosciuti suonatori di un'altra chitarra acustica modificata, una Veena, uno strumento indiano che lui ha chiamato Mohan Veena. Per quanto riguarda invece il titolo della canzone, anch'esso è molto pieno di mistica, si chiama, non me lo pronuncio, anzi l'avete ascoltato molto spesso nel refrain della canzone, comunque significa ascoltami mentre ti chiamo. E anche qui, per quanto riguarda la sua composizione, andiamo indietro nel tempo, precisamente il suo compositore è Baba Ramdev, che ha conosciuto i natali verso il 1450 ed è morto su per giù un secolo dopo. Un santo, dicono, un santo che ha cercato di ridurre le differenze, come da altre parti anche qui indottrinamento dell'Islam, del Kabbali, e ha rifiutava le caste di induisti, di indù, insomma una discriminazione tra queste due caste, quella degli intoccabili, che questo santo ha cercato di diminuire. Anche le musiche, come vi abbiamo accennato prima, hanno una radice comune, a quanto pare, a quanto si dice, una radice che nel caso del Kabbali possono essere ricondotte alla Persia del VII secolo. Il mistico Sufi Rumi, insieme al suo parterre dei dervisci roteanti, dei Mevlana, hanno propagato il Sama, cioè l'ascolto, qui nell'Asia centrale, nell'Asia, nel subcontinente indiano, e qui si sente molto forte a cavallo tra il Pakistan e l'India. In queste due regioni del Punjab e del Rajasthan si sente molto forte, insomma, l'influenza, il misticismo del Kabbali. E tutto questo per farci andare avanti ancora nell'ascolto della nostra trasmissione, quando sono le 21.30 e ci spostiamo poco di più a sinistra, entriamo in Medio Oriente, da dove si dice che arrivi l'ordine dei suficistia, l'ordine di questi sufi che poi hanno fondato il Kabbali. Infatti ci dicono che questa corrente decistia nacquero nella zona dell'attuale Afghanistan. Allora, anche l'Afghanistan, terra martoriata, come sappiamo, negli ultimi 30 anni, è la patria di questo ordine, di questa musica mistica. E allora, quando sono le 21.33, andiamo ad ascoltarci forse l'origine del Kabbali. Yaran hamad binas, dar halqa-e-mae-mshab, yaran Shirinast, che significa bene o male la tua preghiera è così dolce, così carina. Sono gli Ahmad Sham Sufi Kavali Group che arrivano appunto dall'Afghanistan, un paese come sapete a cavallo, è un crocevia tra il Medio Oriente e l'Asia e praticamente tra l'impero persiano di un tempo, tra il subcontinente indiano, tra l'Asia centrale. Sono tre mondi abbastanza diversi che dunque hanno in qualche modo e in diverse vie buttato la loro cultura all'interno dell'Afghanistan, che purtroppo in questa canzone si sente, ma purtroppo 30 anni di guerre decise da altri hanno fatto sì che la musica e tutte le altre arti hanno subito persecuzioni tali che la cultura afghana sia stata veramente ridotta quasi allo zero e secoli di storia, secoli di tradizione musicale. Qui in questa canzone ascoltavamo, si poteva ascoltare l'influsso tra la melodia e il melismo che era più persiano e soprattutto la parte ritmica che invece era dovuta al era più facile ricondurla al subcontinente indiano. E questi 30 anni di guerre naturalmente sono iniziati prima dell'arrivo dei talebani, già quando c'era la guerra con i russi c'era un po' come dire la volontà da parte dei mujahideen di opporsi alla cultura del paese, perché i russi erano così colonizzatori che imponevano il modo, la strada in cui si doveva studiare, si doveva fare media, cultura, e così per i mujahideen era iniziata in qualche modo la distruzione sistematica della cultura afghana, no? I mujahideen non volevano che i russi facessero la loro propaganda, dicessero come si doveva fare cinema, ad esempio per l'Afghan Film Institution, che è nato nel lontano 1968 da parte del re Zahir Shah, l'ha voluta per fondare la cosiddetta cinecittà dell'Afghanistan. Poi dopo naturalmente è arrivato il 2001, sono arrivati i talebani, i talebani sono arrivati all'incirca nel 96, ma c'è stata una continuazione, un'impennata della distruzione della cultura afghana. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. نگر کنم صاحب من بر تو نگاهی گاهی گر کنم صاحب من بر تو نگاهی گاهی افکن می شود از من thank you. Questa era Ustad Mawash, al secolo Farida Mawash, nata a Kabul nel 1947 ed è stata la prima donna nel 2006 a ricevere, ad aver conferito il titolo onorario di Ustad, di maestra, di master. Oggi correntemente vive in esilio in California, come la maggior parte dei registi, dei musicisti, dell'ensemble Kabul, con cui Mawash, il suo nome d'arte di questa cantante classica, suona. E ha iniziato a cantare a Radio Kabul a 20 anni, sotto 20 anni, con questo pseudonimo, e nel 71 già, pensate, nella libertaria Afghanistan del 71 è stata eletta cantante dell'anno, così che dopo numerosi compositori hanno scritto per la sua voce. Dicevamo che prima c'è stata la guerra tra i russi e tra i mujahideen, poi nel 96 sono arrivati i talebani. Talebani che il 5 dicembre, se non sbaglio, il 5 dicembre emanano il decreto che proibisce il cinema, la televisione, insomma proibisce l'arte, proibisce le immagini. Articolo 6 si chiama: divieto dell'idolatria nei vicoli, nei negozi, negli alberghi, nelle stanze e in ogni altro luogo. Le immagini e i ritratti sono aboliti. I controllori distruggeranno tutte le immagini dei luoghi suddetti. Questo, insomma, è un po' stato il punto più basso della cultura afghana, del cinema anche afghano. Le pellicole sono state demolite, alcuni registi in realtà con molto pericolo per la loro stessa incolumità hanno cercato di trarre in salvo il salvabile, insomma, alcune pellicole, nascondendole nelle proprie case, negli intercapedini, nei muri, nei pavimenti. Alla fine, bene o male, si sono salvate una sessantina di film, tra lungometraggi, documentari, film di finzione. E tra questi film è difficile trovare una donna che indossi il burka. Tra questi film addirittura, al contrario, c'è il glamour, ci sono dei rossetti, c'è del tacco a spillo, ci sono delle scollature, ci sono addirittura delle bottiglie di whisky. Ancora una canzone dall'Afghanistan, Rafi Nabzada. Yeah. Azele purtare de-am veșnaua e cel vagodos mi-o iar Sazabanos mi-o iar, caramelos mi-o iar Azele purtare de-am veșnaua e cel vagodos mi-o iar Azele purtare de-am veșnaua e cel vagodos mi-o iar Azele purtare de-am veșnaua e cel vagodos mi-o In questa musica sembra di sentire tutta l'allegria e il divertimento che ho sentito in Turchia, precisamente a Istanbul, nel quartiere, nella zona asiatica di Istanbul, nelle mehane, nelle osterie dove ci si divertiva e si cantava. Sabzabanaz mea haya del titolo di questo brano di Rafi Nabzada insieme a Ahmed Sakizada. Una traccia che abbiamo preso, abbiamo ascoltato dalla Rough Guide della musica dell'Afghanistan. 21:53, come vi dicevamo, la musica afghana era molto di più, la cultura afghana era molto di più. Ci sono due esiliati qui in Italia, si chiamano Razi Mohebi e Shoeila o Soeila Javaheri. Alla caduta dei talebani nel 2001 avevano fondato la Kabul Film, se non vado errato, sì, eccolo qui, la Kabul Film, per dare, ridare vita, ridare un inizio e una prosecuzione alla cinematografia afghana. Però a un certo punto così si trovavano qui in Italia, precisamente in Trentino, a presentare dei documentari e li chiamano dall'Afghanistan, dal loro paese, e gli dicono di non rientrare perché le loro vite sarebbero state in pericolo. Questo perché andavano a toccare dei nervi scoperti sia dalla parte degli integralisti, sia dalla parte del popolo che dell'esercito. Insomma, nessuno più voleva documentare nulla, o nessuno al potere vuole, come spesso avviene in molte parti del mondo, che qualcuno documenti la realtà. E la Kabul Film, appunto, viene fatta chiudere da autorità, e così questi due si ritrovano esuli in Italia. Ci dicono, non so precisamente, uno dei due: per uccidere un popolo devi uccidere la memoria. Per questo in Afghanistan sono stati distrutti i film, le opere d'arte, i libri. Kajaki, kajaki, yavru idni shigaj dumaz Çeko nam afsız male mardumaz Kajaki, yavru idni shigaj dumaz Çeko nam afsız male mardumaz Zim zim zim, zim zim zim zim zim zim zim zim zim zim Tara Hussainzada ci fa sentire al meglio quello che era il lato poppeggiante della cultura afghana. Intanto il jingle ci ricorda che siamo arrivati in chiusura di trasmissione, sono le 21:56. Volevo solo aggiungere che Razi Mohebi è stato l'allievo di uno dei più grandi cineasti afghani, quello che ha fatto viaggio a Kandahar, per capirci, Mohsen Makhmalbaf, che è un intellettuale in continuo movimento tra il Tagikistan, l'Afghanistan, la Turchia, l'Iran, insomma tutta l'area culturale persiana, area da dove arrivano il gruppo con cui ci salutiamo questa sera. Sono i Niyaz, che si formano anche questi in esilio, diciamo così, tra virgolette, a produrli, a metterli su, e tal Carmen Rizzo, e alla voce c'è tal Azam Ali. Insieme a questi due c'è Loga Ramin Torkian. Chiudiamo con loro questa puntata, anzi facciamo partire la loro canzone, una canzone che si chiama Hallahi Halla, una canzone anche questa abbastanza spirituale, di Niyaz, album omonimo del 2005 pubblicato per la Six Degree. La Cicogna Nera torna giovedì prossimo, cercheremo di essere puntuali alle 21. Hallahi Halla. मालिक है नाम उसी का लिया कर।